ennari una chapila a Santa Anastasia nu tratta l'urumora sentite che paura iasceva fatica manca forze cammana pavia tu manna sta botta che sarà e amassari e rumana na fabbrica scoppiata e accenda che fuieva e la taca sconforta ma una non si trovava povera mamma sconsolata per mano noi pigliamma tutta sti telegramma son lettere con doglianza mannata va crianza so arrivate da Uta e a chiesa si m'aiuta per l'urda ma saluta per compagna sfortunata a terra ma accompagnata qua raggiaria ancora pa e coppa chi sti morta giura malata pava. Esta come che stas u palmos me dita e a conta me no che ti rasti in vita e a conta me no che ti rasti in vita e di buon tamagno né largo né funge e a parci che ci cabi desti la ci funge e a parci che ci cabi desti la ci funge now e cova granci e cova mi gida e a terra che chi riasci vergi vigida e a terra che chi riasci per dividila. E o macco va grande, prato a carne poca, mai sa terra dada, non si apre a bocca, ma sa terra dada.